Carlo Genta. Ciao a tutti, diretta anche oggi 800240024, beh, sarà mica una novità, vi aspetto per tutta quest'ora insieme, ci avviciniamo al campionato, anche a ore cruciali per il mercato. Claudia Schiattone, la nostra autrice, Giovanni Melchior in redazione, Andrea Roccabelli in regia. Partiamo subito dal mercato, che so che vi interessa. Llorente torna in Spagna, va al Siviglia in prestito gratuito. L'ingaggio ovviamente lo pagheranno gli spagnoli e quindi questo affare è fatto, così come Nagatomo al Genoa per in cambio di 2 milioni, rifiutata la Sampdoria, accettato il Genoa, chissà che derby per Nagatomo. C'è una voce secondo la quale Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato 30 milioni dal Wolfsburg per Martens, che a inizio mercato era sul piatto per meno della metà. Facciamo così, ha cambiato idea De Laurentiis. Ma ieri c'è stata, a proposito di Juve, la kermesse di Villar Perosa, che è uno dei grandi classici dell'estate italiana. A me ricorda il famoso cornetto cuore di panna, mi ricorda il calcio balilla, Ghiaccioli. Ciao Guido Vaciago di Tutto Sport, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, un po' di rotocalchi, altre cose molto molto estive, sì, erano, sì, beh, erano le prime occasioni per vedere i nuovi della Juventus con la maglia bianconera. Oggi li abbiamo già visti da mesi, Guido. I rotoli di querizia, così adesso ormai mi hai innescato. No, andiamo avanti. Sì, li abbiamo. È diventata un po' un simulacro di quella che era, certo, in origine Villar Perosa, perché oltretutto Villar Perosa era la prima uscita della Juve, adesso diventa l'ultima. Esatto. A volte viene vissuto quasi come un obbligo istituzionale. I giocatori non sono più lì in ritiro, quindi vanno in un paese dove non riescono a capire come mai, dopo aver fatto partite nei più grandi amichevoli, nei più grandi stadi d'Europa, devono fare una partita in un paesino della Val Chisone e sì, poi gli spiegano naturalmente: guardate che qua il vostro datore di lavoro la sua famiglia ha origine lì dall'Ottocento, però insomma è una cosa comunque sempre emozionante. Ieri c'erano 7.000 tifosi, forse anche di più, e credo che sia una cosa importante, perché le grandi squadre sono sempre più staccate dai tifosi. Uh-huh. L'unico momento di contatto fisico, non ci sono più allenamenti che si possono vedere, c'è qualche disperato che magari si mette fuori dai cancelli dei centri sportivi alla ricerca di un selfie un autografo. Sì. L'unico vero contatto, l'unico vero bagno di folla alla fine per la Juve diventa Villar Perosa, quindi Dio conservi Villar Perosa. Dio conservi Villar Perosa per la Juventus e per gli juventini. È stata l'occasione per Marotta di parlare di mercato e di quello che la Juventus sta cercando in Germania più che altro, oppure che ha lasciato stare sempre in Germania. Sentiamo Marotta. Italiano, un altro dei nomi che è venuto fuori. Ma i nomi possono essere tanti, come dicevo prima, non è facile individuare un giocatore da Juventus, noi non ci vogliamo accontentare di un nome qualsiasi. Ma l'armeno è un profilo che vi può interessare, lo state seguendo? Ma non è questo nome un altro nome, l'armeno, come appunto viene definito, è un giocatore di proprietà del Borussia e noi non ci permettiamo neanche di entrare appunto in un confronto con il giocatore se non con l'assenso della società. In questo momento i segnali non sono di apertura, per cui rispettiamo queste volontà da parte del Borussia in attesa che, ripeto, sia su di lui che su altri giocatori si possano aprire delle prospettive diverse. Tra l'altro, se noi abbiamo, direi, chiuso qualsiasi dialogo con loro già da qualche settimana, perché esistono degli impedimenti oggettivi, delle motivazioni forti che ci portano a non poter dialogare con questa società. Quindi Guido Vaciago, avrai sentito l'armeno, perché Mkhitaryan è un nome abbastanza difficile da pronunciare, esatto. Si fa prima con l'armeno. Mi sembra che Marotta abbia dei problemi anche con Draxler. Draxler anche, pure non è facile, un po' più facile, pertanto l'hanno mollato, no? Quindi non si va più a caccia di Draxler perché costa troppo. Senti, Marotta dice che vuole anche un centrocampista e lo vuole prima della Roma, anche perché il giorno dopo chiude il mercato. Minimizza invece sugli infortuni, ma tanti muscoli che saltano, è vero che l'anno scorso c'erano problemi, Pirlo eccetera eccetera, però questa sequela di infortuni muscolari non preoccupa proprio la Juve, eh? Allora, apparentemente no, ma devo dirti la verità, è forse anche una questione di stile. C'è una sorta di input di non piangersi addosso sugli infortuni, e quindi ieri Allegri ha fatto quello che gli allenatori a volte non fanno, perché di solito quando hanno mezzo infortunio iniziano a mettere le mani avanti. Allegri, devo dire, è stato un molto sportivo nel dire: beh, insomma, io sono la Juve, ho una rosa ampia, se mi si fa male Tizio, o comunque un Caio che lo può sostituire all'altezza. Detto ciò, però, 5 infortuni muscolari in un mese sono tanti, dipendono probabilmente dal fatto che la Juve si è ritrovata tardi, un po' per colpa delle nazionali, un po' per colpa della grande stagione che ha fatto l'anno scorso, che è finita forse con una decina di giorni in più di lavoro non previsti, che erano quelli che sono serviti per arrivare alla finale di Berlino, giorni benedetti, perché comunque ti hanno concesso di fare una finale di Coppa dei Campioni, ma nello stesso tempo dei giorni che hanno allungato la stagione e hanno allungato le ferie. La Juve quindi poi ha fatto in 3 settimane, ha preparato la Supercoppa italiana di Shanghai. Io credo che per arrivare a essere competitivi in 3 settimane con i carichi di lavoro che di solito si fanno in estate, qualche compromesso è stato fatto, e questo compromesso è stato pagato forse un po' troppo caro, forse fin troppo caro rispetto a quello che si aspettavano alla Juve. Però ti confesso che alla Juve dicono, sussurrandolo e dicendolo molto piano, che un paio di infortuni loro se li aspettavano, dovendo fare quel tipo di estate. Un paio, non cinque. Certo, 5 cominciano a complicarti i piani. Vorrei commentare insieme a te altre 2 notizie di oggi. Una sconvolgente, che non è quella della retrocessione del Catania, lì ci andiamo dopo. Quella sconvolgente riguarda il mercato, perché il City ha pagato 45 milioni per Otamendi, buon difensore argentino, facendo le fortune del Valencia. E beh, cioè, 45 milioni per vedi che poi salta tutto, allora, no? i 12 del West Ham per Ogbonna sono ridicoli. La Juventus ha sbagliato, non ha capito niente, ha sbagliato tutto. Quando ti chiamano dall'Inghilterra prima dei 30 non anzi neanche la cornetta. Si va dai 30 in su, si sballa tutto. Poi il gioco a un certo punto finisce. Mi ricorda tanto i nostri fine anni 90, se ti ricordi, i primi anni 2000. Più o meno il giochino è quello. Più o meno il giochino è quello. Poi a un certo punto si scoppia. È vero che le risorse del City non dipendono dai diritti televisivi o da, come dire, imprenditori particolarmente avventurosi, ma dipendono da delle risorse petrolifere virtualmente inesauribili, perlomeno nel breve periodo. Però io credo che a un certo punto questo giochino poi rischi di far saltare il banco. La Premier è un po' sul filo del rasoio, continua a essere il campionato più bello e più ricco, ma è un po' sul filo del rasoio dal punto di vista delle spese. Sì, con tanti saluti al fair play finanziario, a Platini, a tutti quanti, no? Perché tanto sappiamo che lì stiamo scherzando, no? No, per forza. Poi Platini adesso vuol fare il presidente della FIFA, quindi magari il fair play finanziario non gli interessa più, è passato di moda il fair play finanziario. Guido, per chiudere invece, è sempre di oggi, ma è stata anticipata già, quindi non è una grande sorpresa. La retrocessione del Catania, si chiude questo caso orrendo delle partite comprate. Quindi adesso sappiamo che truccare o tentare di truccare 5-6 partite costa una categoria, quindi dalla Serie B alla Lega Pro, 12 punti di penalità, una dozzina di punti, 5 anni di inibizione, 300.000 euro di multa a Pulvirenti, che contiamo tutti, non si faccia più vedere. Mentre c'è quell'altra, però Pulvirenti ha spifferato tutto, cioè ha confessato, ha detto fatto queste porcate, eccetera eccetera. Mentre c'era quell'altra storia del Teramo, salito in Serie B per la prima volta nella sua storia, però dopo aver comprato la partita con il Savona. E allora lì i presidenti hanno negato tutto e sono scesi di 2 categorie, peggio dei gamberi, non una ma 2 finiscono in Serie D. Sotteso a questo c'è la logica, il pentitismo nella giustizia sportiva, pentitismo. Sì, però mi devono spiegare questo pentitismo a cosa serve. Cioè, siamo un paese la cui storia deve comunque molto al pentitismo, però perché poi ha portato perlomeno in alcuni casi a risolvere determinati problemi. io non riesco a capire il pentitismo di Pulvirenti, che problema può aver risolto, cioè non è che ci ha aiutato a debellare quella che è un cancro del calcio per me internazionale, perché le partite si comprano e si vendono non solo in Italia, noi siamo gli unici magari che lo dicono a voce alta, ma non riesco a capire il pentitismo di Pulvirenti e cosa possa essere utile. Ora, se io sono contento che una città come Catania, che ama il calcio, e una squadra come il Catania, che ha una sua storia, non debba per colpa di una dirigenza essere cancellata, quindi sono contento se vuoi da una parte di questa mano leggera, dall'altra sono preoccupatissimo come te per il precedente che si viene a creare, perché questa è di fatto una via libera a chiunque vuole comprarsi una partita. Tra l'altro, con le confessioni di Pulvirenti sappiamo anche quant'è il valore tabellare, quindi sappiamo tutto, e quindi è praticamente il manuale tra Pulvirenti e la giustizia sportiva, hanno scritto il manuale del perfetto acquistatore di partite e del perfetto venditore di partite. Ringraziamo sentitamente, e ringrazio che te, Guido, ovviamente in un altro senso non ironico. Grazie Guido Vaciago. Un abbraccio. Ciao Guido. Ciao. Allora, un po' di temi sul piatto, adesso state con noi perché rimarremo nei pressi di Torino, ma non la Torino bianconera. 800 24 00 24, numero verde traffico. Non si può vincere all'infinito, anche quando si è più forti, e parlo perché noi abbiamo cambiato tanto, e poi parlo perché ci sono delle squadre che si sono rinforzate o che addirittura hanno incominciato, ecco, un percorso tutto nuovo, per cui un grande entusiasmo, e per cui abbiamo il massimo rispetto di tutte le squadre che fino alla fine ci contenderanno il titolo. Tutti convocati. Tutti convocati. Presidente Urbano Cairo, buongiorno, che piacere. Ah, due minuti al Presidente Urbano Cairo, mi aveva scritto, però già vi ho svelato la sorpresa, gli chiederemo innanzitutto come salta Belotti e poi quello che ha detto ieri De Laurentiis. Intanto parla Giulio D'Ascoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo solamente farvi notare una cosa. Sì. Che quello che è successo con questo benedetto, maledetto scandalo del calcio, cioè cose che devono essere tirate fuori dalla magistratura quando tutti sapevano che nel calcio c'è del marcio. Poi ci vogliono le prove. Ovviamente tutti sanno, piove, governo là, però ci vogliono le prove. In quel caso ci sono state, tra l'altro lei chiama da Ascoli, l'Ascoli beneficia di questa sentenza, non mi sembra il caso di parlare di feste di fronte a problemi di questo tipo, però beneficia di questa sentenza l'Ascoli, che torna in Serie B, così come torna in Serie B l'Entella, entra al posto rispettivamente di Catania e Teramo. Però io condivido quanto ha detto prima Guido Vaciago, cioè questa è una sentenza in qualche modo storica. Non mi piace commentare le sentenze, mi limito a fare della cronaca. È una sentenza in qualche modo storica perché dice chiaramente come il pentitismo sia entrato nella giustizia sportiva. Ma ha ragione Guido Vaciago quando dice: abbiamo una lunga storia per questioni ben più importanti e ben più serie. Nel nostro paese il pentitismo però portava a tentare di risolvere dei problemi. In questo caso, quali problemi vengono risolti dalle rivelazioni di Pulvirenti, se non il fatto di aver ammesso le porcherie che ha combinato? Mentre Campitelli del Teramo, che per la prima volta nella sua storia era andato in Serie B, e delle Piane del Savona si sono trincerati dietro il classico nego tutto anche l'evidenza, e la sanzione è stata più dura. Per il Teramo due salti indietro dalla B alla D e una retrocessione nella categoria inferiore anche per il Savona. Adesso ovviamente tutti faranno ricorso, una decina di giorni per i processi di secondo grado, e la Corte federale, la Corte d'Appello federale deciderà se queste sanzioni sono congrue oppure no. Io credo di sì, tendenzialmente sì, fermo restando il fatto che si potrebbe discutere su questa forma di tolleranza, di non eccessiva durezza nei confronti di quanto combinato da Pulvirenti rispetto all'altro caso. Dunque, Marotta ha detto che tra 10 giorni arriva un centrocampista, ve lo faccio sentire così siete sicuri. Questa squadra, l'abbiamo detto più volte, manca ancora di un centrocampista in termini numerici, in termini di qualità. Il profilo può essere anche abbastanza duttile a secondo delle opportunità che si presenteranno. Non è facile trovare un giocatore da Juventus, però siamo ottimisti, ci sono 10 giorni di mercato, in questi 10 giorni sono sicuro che arriveremo a una conclusione positiva. E ovviamente i 10 giorni scadono alla partita con la Roma. Di nuovo Marotta. Adesso arriva, Vabbè. Se non arriva, ve lo dico io, 10 giorni che scadono alla vigilia della partita con la Roma, anche perché poi non finisce il mercato. Ci sono altre notizie di mercato che poi tratteremo e che riguardano non il calcio, ma la Formula 1, e cioè una notizia di mercato in qualche modo attesa e farà felice il mio amico Leo Turrini, che poi chiameremo, cioè il biondino che mi Raikkonen rimane alla rossa. Ecco presidente Urbano Cairo. Buongiorno presidente, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie a voi. Come salta Belotti? L'ha visto bene nei salti? Bene, bene, bene, salta benissimo, grande. Invece lei mi deve dire, io glielo chiedo, abbiamo rapporto di amicizia, cosa pensa di queste parole del suo amico De Laurentiis di ieri? Le facciamo riascoltare. Per quanto riguarda Cairo, che si ostina a dire che i suoi giocatori valgono un mondo e quando poi deve comprare però li valuta pochissimo, a me sta molto simpatico, perché ovviamente a Napoli si dice ogni scarafone è bello a mamma propria sua, però voglio dire, c'è un limite a tutto. Maximovic non fa per il Napoli a quelle cifre là. Maximovic è un buon giocatore, ma io ho ricevuto milioni di sms dai tifosi napoletani, i quali mi esortano a non buttare via cifre pazzesche per quel giocatore. Maximovic è un giocatore che può valere intorno ai 12 milioni. Quindi anche questa è una novità, il prezzo lo fa chi compra. Ma devo dire che adesso, a parte gli scherzi, devo dire che De Laurentiis a me porta molta fortuna, perché anni fa mi chiese di acquistare Ogbonna e mi offrì 5 milioni e poi lo vendemmo a 15. Quest'anno mi ha chiesto di acquistare Darmian, mi ha offerto 10 milioni, l'abbiamo venduto a 20, quindi devo dire che visto che lui offre 12 milioni per Maximovic, minimo lo vedremo 25. A 25-30, quindi mi porta un sacco di fortuna. Devo dire, quando lui si interessa a un mio giocatore fa un'offerta, so che come minimo lo vendo al triplo. No, ma poi dall'altra parte, presidente, ma il Torino sta facendo come le grandi squadre, no? Nessuno o quasi nessuno è in vendita salvo le offerte che non si possono rifiutare, mi sembra questa la filosofia, no? Bravissimo, perché noi in effetti, come si è detto, abbiamo venduto Darmian perché era una specie di parola d'onore che io ho dato a lui l'anno scorso quando mi chiese di andare via. Gli dissi non posso quest'anno, però il prossimo anno, se arriverà un'offerta importante per te e per noi, a quel punto lì ti prometto che ti accontenterò. Poi però sugli altri giocatori, Maximovic è un nostro giocatore importante, ci teniamo moltissimo ad averlo e quindi l'abbiamo assolutamente confermato, a meno di cose folli che ormai però non sono più attuali, perché ormai siamo troppo sotto e quindi neanche le cose folli sarebbero fattibili adesso, perché il campionato comincia domenica. Certo. Però insomma, per il resto abbiamo tenuto tutti perché ci tenevamo a rafforzarci, abbiamo preso giocatori giovani di buonissimo livello come Belotti, Baselli, Zappacosta, Velar, qua e Benassi la metà che ci mancava e quant'altro, quindi insomma direi che siamo contenti. No, ma poi io credo che il mercato lo determinino anche cifre internazionali. Parlavo prima, Otamendi, buon difensore argentino, 45 milioni di euro dal Manchester City, cioè siamo alla follia, no? Siamo alla follia. Esattamente. Quindi c'è qualcuno che vuole fare il pazzo, lo faccia. Sì, ma giustissimo, sono d'accordo. Concordo pienamente. Intanto avete preso, io mi ricordo l'ultima volta che è intervenuto, avevamo parlato con Pardo di Belotti, era la vostra prima scelta, l'avete preso, giusto? Sì, assolutamente sì. Belotti è un giocatore che al nostro mister piaceva moltissimo, a tutti noi, e abbiamo cercato di prendere lui in tutti i modi, l'abbiamo aspettato, non prendendo giocatori che potevano essere fattibili precedentemente, perché l'obiettivo nostro era assolutamente Belotti. E avere preso lui per noi è stato aver realizzato la prima scelta che avevamo pensato. Chiudiamo ufficialmente il mercato adesso? Sì. Sì, direi di sì. Sì, sì. Assolutamente sì, la squadra c'è, è una buona squadra. Poi chiaramente adesso io tocco anche ferro, perché quando fanno troppi complimenti perché il mercato è fatto bene, io mi incrocio sempre le dita e tocco ferro. Però certamente insomma credo che il campo deve dire poi se il mercato è buono o non buono. Però certamente i buoni giocatori presi, diamogli anche un po' di tempo perché sono molto giovani, però hanno delle prospettive interessanti e possono fare bene. Poi come sempre ci vuole tutto un insieme di cose, l'amalgama che funziona, insomma lo spogliatoio e tutto il resto, però insomma credo che veramente le basi siano buone. Adesso dobbiamo lavorare sodo, avendo pazienza, abbiamo un bravissimo mister a gestire e a sviluppare i giovani, quindi siamo contenti. Adesso dobbiamo lavorare bene perché questa squadra dia buoni risultati. Sì, e questa è l'ultima cosa che volevo chiedere, Presidente. Molti, come lei ha detto, vedono il Torino ancora più in alto, cioè vedono, l'ho chiesto ad esempio l'altro giorno a Mondonico, chi vedi come rivelazione, lui il Torino mi piace da morire. Questo mette più pressione o mette addosso più divertimento? No, ma diciamo che non deve, secondo me la pressione non deve esserci assolutamente. Noi dobbiamo fare le cose step by step, come ha detto giustissimamente il mister, cominciamo a fare 40 punti, perché è così che deve essere. Adesso abbiamo tanti giocatori giovani, devono amalgamarsi bene, devono apprendere i dettami del mister, il modo di giocare che abbiamo, eccetera. Quindi oggi secondo me la cosa importante è non dare pressione, non pretendere nulla, ma chiaramente insomma credo che il mister per primo vuole fare bene e i giocatori per primi vogliono fare bene, però non dobbiamo come dire porci obiettivi perlomeno sulla carta. Dobbiamo fare step by step come si è fatto lo scorso anno e l'anno precedente, e poi le cose, se come io penso la squadra c'è, i giocatori sono buoni e hanno potenzialità e possono diventare meglio di quanto non siano oggi, perché chiaramente lavorando con loro le cose migliorano, potremmo fare delle cose certamente positive. Certo, io la saluto con un messaggio di un tifoso juventino che scrive: sono tifosissimo Juve, ma se la Juve non dovesse rivincerlo vorrei lo scudetto al Toro sinceramente, quindi state rubando la Juventus per fini tifosi. Okay. Non so più cosa dire. grazie Presidente, buon grazie lavoro. A voi, a presto, grazie Presidente Urbano Cairo. 800 24 00 24, Luigino da Verona, stia con noi un attimo, c'è la borsa, ma una roba rapida, tanto facciamo presto, arriviamo subito, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Verona, adesso gliene racconto una bella prima di farla parlare. Camoranesi, che peraltro a Verona ha anche giocato con l'Hellas, non è mai stato un tipo semplice, è sempre stato uno abbastanza originale, ma questa da allenatore non me l'aspettavo, una delle notizie più curiose del giorno, tutto compreso. perché faceva l'allenatore di una squadra messicana di seconda divisione chiamata Coras Tepic, credo, spero di pronunciarla correttamente perché è la prima volta che la sento in vita mia. Ebbene, Camoranesi sa che ha fatto? A mezz'ora dall'inizio della partita di Coppa del Messico con il Chivas, se n'è andato. Ha detto, basta, non alleno più. Me ne vado, mi licenzo, mezz'ora prima della partita. Ho preso la decisione di fare un passo indietro, è una scelta che mi costa tanto, che mi fa male. Credo però che non mi siano state date le basi per poter continuare a lavorare nella migliore maniera, a differenza di quanto pensassi. Mezz'ora prima della partita l'ha capito. E quindi ha chiuso la porta e se n'è andato. Le piace questa, Luigino? Non tanto. No, non a parte che io tifo Chievo. Lei tifa Chievo. Questo però non lo sapevo prima. Mi spiace. Ma mi va bene anche a Cameronese. Non era niente male a Cameronese. Comunque le dico una cosa. Dica. Voi dovete cambiare nome. Non tutti, pochi convocati. Perché? Scusi, gente. Caspita, parlate sempre insomma. Ma guardi che probabilmente possiamo vincerlo anche noi, scudetto, Noi del Chievo? Come no? Noi siamo iscritti al campionato. Sì, sì, si parte tutti da zero. Mi sbaglio, perché quella volta che l'ha vinto il Verona, non è che insomma. No, volevo dire semplicemente che capita, insomma, si è sentito pochissimo dai carti, qualche cosa. Io mi sento nel 90%, non sempre, perché sono un artigiano, insomma, a volte sono in giro, però insomma, sono sempre quelle, Juve, Milan, Inter, insomma, se quelli lì vanno a fare una pisciatina fuori, insomma, mi scusi il termine, ma... Tutti gli altri il Sassuolo, noi insomma adesso comincia il campionato e c'era occasione per parlarne, ma poi sa, tutti convocati o pochi convocati, vede che abbiamo l'occasione di parlare, io dico sempre questa cosa, di parlare del Chievo con lei, che vincerà il campionato non credo, però penso possa salvarsi. Avremo l'occasione di parlare del Carpi, che sta inchiostrando Borriello con un contratto particolare, perché lui farà anche l'uomo immagine di una nota marca di abbigliamento. Avremo modo di parlare del Sassuolo, che l'anno scorso ha fatto un magnifico campionato. Avremo modo di parlare di tutte le altre. Poi io dico sempre queste cose, voi avete la possibilità di intervenire, di parlare della squadra che volete e di fare quattro chiacchiere insieme, a me fa solo piacere. Un minuto fa abbiamo parlato del Torino con il presidente Cairo. Aspettiamo qui giocatori, allenatori, dirigenti di Chievo, Atalanta, Verona, Sassuolo, Carpi, le nostre porte sono sempre aperte. E poi quanto al discorso di bacini di utenza lo lascio fare a Pardo quando torna, perché lui è, in questo è bravissimo. Mi limito solo a dire questo e a salutare Nicola Roggero invece da Fox Sport. Buongiorno a tutti. Ciao Nicola. Ciao, senti, preliminare di Champions, a Lazio secondo me è andata bene. Dai, quell'1-0 va bene. United Direi che è andata bene due volte, innanzitutto perché 1-0 è uno di quei punteggi ideali, non hai subito gol in casa, che è fondamentale, e comunque hai un gol di vantaggio che è importante perché permetterà alla Lazio di giocare di rimessa, cioè non si riparte da una situazione di parità ma si parte da una situazione di vantaggio. E che vuol dire che avendo un giocatore come Keita, a questo punto presumo che giocherà lui, visto che Close è out, ecco, un giocatore che ha quella velocità con i due centrali del Bayer Leverkusen che abbiamo visto all'Opera Olimpico, è chiaro che può proporre tante situazioni interessanti. A maggior ragione più si svilupperà la partita. Faccio un esempio: se la Lazio riuscirà a rimanere sullo 0-0 dopo 25-30 minuti, più minuti passano e più ampie saranno queste chance. Quindi è un punteggio ideale. Non penso che sia ancora difficile, perché in ogni caso il Bayer Leverkusen obiettivamente è sembrata più squadra, a parte due centrali, è sembrata più squadra, è probabilmente la squadra che dal punto di vista proprio del gioco aveva giocato meglio. E detto questo, poi l'episodio comunque ha favorito la Lazio, che comunque aveva già avuto altre chance sempre con Keita, che non ha rubato nulla, secondo me. No, ma certamente. E adesso, se volessimo fare probabilmente un pronostico, direi che la Lazio è arrivata al 51%, il Bayern sta al 49%. Poi naturalmente gioca in Germania, ripeto, Bayern Leverkusen mi sembra che abbia degli elementi di notevole valore anche dal punto di vista tecnico. Detto questo, ripeto, c'è una situazione tattica che è determinata dal punteggio che potrebbe dare soddisfazione alla Lazio. Sì, poi lo United nel segno di Depay, Monaco quasi fuori, 3-1 con il Valencia, che credo che oggi sia il club più felice del mondo, no? Perché non ti capita tutti i giorni di vendere un buon giocatore come Otamendi per 45 milioni di euro in Inghilterra. Fantastico, colpo straordinario. Oramai ci sono delle valutazioni, oggi leggevo Gianni Mura su Repubblica, ma poi ho letto anche Garanzini sulla Stampa, che parlavano di queste valutazioni di giocatori che sono totalmente al di fuori di ogni logica. Ripeto, un buonissimo giocatore, parliamo del cielo, ma 45 milioni di euro, con 45 milioni di euro si paga un giocatore che si è certi faccia la differenza a grandi livelli. È chiaro, Nicola. Questi sono giocatori che buoni sì, però ce ne sono tanti, ecco. Allora a questo punto, non senza scomodare Messi o Ronaldo, ma anche solo, faccio un esempio, un Modric. Allora Modric vale già 80-90 milioni, un Thomas Müller diventa logico l'85 milioni di euro che ha offerto il Manchester United, e parliamo di quotazioni che fanno rabbrividire. Non c'è più limite a questo punto. No, non c'è più limite. Ne parlavo prima col presidente Cairo, cioè a proposito di quanto ha detto ieri De Laurentiis, di Maximovic, non vale 25, queste cose, poi ti trovi davanti a una squadra inglese, ho detto prima a Cairo, non alzi nemmeno il telefono prima che ti abbiano mandato un fax con scritto si parte da 30, poi vediamo. A questo punto diventa poco i 20 per Darmian, se la logica è 45, diventa poco, che invece è una buonissima quotazione per un buonissimo giocatore che ha già fatto vedere di meritare il Manchester United. Senti, i tormenti del vecchio Mourinho, che non si diverte tanto circondato dalle signore, oggi sono stati nuovi attacchi su Mourinho, è partito pure male in campionato. Soprattutto ha sbagliato ad attaccare. Già anzitutto uno che giustifica un risultato non positivo dando la colpa al medico che entra in campo al 92esimo minuto per soccorrere un giocatore, cosa che tra l'altro rientra nei suoi doveri professionali, e quindi insomma pensando che il risultato non positivo sia determinato da quell'episodio, ripeto, era il 92esimo minuto di una partita che sarebbe durata penso ancora uno o due minuti, non di più, insomma faceva capire che l'analisi della partita gli era un po' sfuggita. Sì. Ma questo rientra nel personaggio Mourinho, che cerca sempre di spostare l'attenzione dalla prestazione negativa ad altre aspetti. Cose, ma certo. Stavolta non gli è riuscito il gioco, anche perché ha avuto il torto di prendersela con una signora e di conseguenza questo ha scatenato le ire da una parte e anche l'ironia nella partita con il City, ricorderete le grida di incitamento per la medico del Chelsea, quando tu i giocatori del Chelsea i giocatori del Chelsea andavano per terra e dovevano arrivare i medici del Manchester City a soccorrerli e quindi è stato danno e beffa atroce. Stavolta Mourinho veramente l'ha fatta fuori dal ballo. Non ne ha trovata una migliore. Nick, dimmi due cose sui mondiali di atletica. Perché vorrei dirne tante, qui entriamo nel mio giardino. Esattamente, stavo dicendo, perché è il tuo giardino. Cosa porta Sebastian Coe, presidente della Federazione Mondiale Atletica? Tantissimo, anzitutto la personalità, il nome, il carisma. L'Atletica ha avuto 16 anni di fatto di buco, di vacanze di potere, o forse peggio ancora, un potere esercitato molto male. È stato bruciato tutto il patrimonio che era stato regalato da Primo Nebbiolo a questo sport, che era diventato uno sport dove i mondiali erano un avvenimento secondo, credo, soltanto all'Olimpiade, o forse quasi par all'Olimpiade, perché poi l'Atletica era anche... Dal punto di vista valore tecnico non c'è niente di diverso, no? Aveva portato il mondiale, non so, a Tokyo con l'imperatore in tribuna, quindi l'Atletica era diventata un movimento tale per cui davvero soltanto Sua Maestà il calcio poteva stare al di sopra. Con Biachi si è perso tutto questo e adesso con Coe bisognerà risalire, ma credo che anche il passato di Coe, non soltanto un passato di atleta, ma soprattutto il suo passato del dirigente, anche da membro del Parlamento inglese alla Camera dei Lord, quello che ha fatto alle Olimpiadi di Londra, le sue idee, il suo carisma, la sua personalità, facciano pensare che per l'Atletica il futuro tornerà ad essere roseo. Io sono, sono molto contento della sua elezione e credo che sia anche fortunato il Lord Sebastian, lo dice uno che ha sempre tifato per Steve Ovett, però sempre ammirato Q, è fortunato perché sarà un grande mondiale. Avremo ovviamente d'attesa per questa sfida sui 100 tra Bolt e Gatlin, avremo questo americano Evan Jager che attenta alla superiorità dei keniani sui 3000 siepi, che è sempre per tradizione loro terreno di caccia. Avremo poi, per quanto ci riguarda, un bellissimo salto in alto con due azzurri, Jimbo Tamberi e Marco Fassinotti, che potrebbero essere protagonisti, chissà, forse a livello di medaglia. E avremo tante gare molto belle con l'eroina di questi mondiali, che potrebbe però essere una signora, Genzebe Dibaba, la ragazza etiope che quest'anno ha già battuto il record mondiale di 1500, storia bellissima, terza di sorelle che hanno già fatto la leggenda dell'atletica a partire da Tirunesh. Tra l'altro aggiungo che Genzebe Dibaba, bellissima ragazza, quindi cosa che non può essere nemmeno, certo, potrebbe essere lei l'eroina di questi mondiali, tenterà il doppietto 1500-5000, che non è per niente facile, ma insomma devo dire che Q partirà col piede giusto, perché avremo sicuramente un mondiale bello da ricordare. E lo aspettiamo su quella pista che peraltro conosciamo e soprattutto conosce bene Sua Maestà Usain Bolt. Sono curioso di vedere se è ancora lui. Sono curioso di vedere se. Guarda, l'ultima immagine di Bolt a Londra è molto rassicurante, nel senso che lui ha fatto due gare. Faccio un po' interessi privati, no, di d'ufficio, trasmesse da Fox Sports, sì, che ha tutta la Diamond League in esclusiva e anche diversi altri meeting importanti. Le due gare precedenti, Ostrava e New York, aveva avuto un Bolt che veramente era l'ologramma di se stesso. A Londra invece 2.9.87, fra l'altro sotto l'acqua, che fanno pensare che i progressi di Bolt, soprattutto la sua personalità, siano tali che potrebbe anche impensierire Gatlin. Sarà comunque una grande sfida, a mio parere non arriverà il primato del mondo perché Bolt l'ha posto troppo in alto, sì, 9.58, certo, e 19.19, però avremo due grandissime gare, tra l'altro con due forti personalità, perché se Bolt è sicuramente un grande personaggio, a sua volta Gatlin è uno molto sicuro di sé. Sopportare quello che ovviamente è giustamente poi sulle spalle di Gatlin, il suo passato da ex dopato, eccetera eccetera, ed essere protagonista non è facile, quindi sarà un meraviglioso duello, ripeto, in un mondiale che mi aspetto riscatti le precedenti edizioni, soprattutto quella di Mosca, che sono state obiettivamente deludenti, secondo piano. Deludenti. Grazie Nicola, grazie davvero. Grazie a voi, un saluto. Grazie Nicola Roggero. Ci fermiamo per il traffico, 800-24-0024, poi convochiamo la Turrini, ragazzi. Sì, Raikkonen confermata, la Ferrari lo farà esplodere di gioia, io ne sono convinto. C'è il traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Tutti convocati. Prima però Franco da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto ringraziamenti per la chiamata. Grazie a lei. E complimenti per la vostra competenza in tutti gli sport. Grazie. Io vorrei esprimere la mia indignazione nei confronti di quelle televisioni che trasmettono sport in televisione per quanto riguarda la pallavolo femminile, no? Sì. C'è una squadra italiana che si gioca un titolo mondiale e la cosa viene completamente oscurata. Lei dice le ragazze dell'Under 18. E infatti io l'ho saputo da televideo, insomma. Mi pare che fosse un'occasione per farla vedere gli italiani in questa partita. Cosa dice? Ma sempre sarebbe un'occasione, certamente, però ci sono anche questioni di diritti, questioni di produzione. È molto difficile poi arrivare in corsa e poter far vedere la sfida finale, quindi d'altra parte la copertura su televisiva sul panorama giovanile non sono nella pallavolo così ampia, cioè, ad esempio il mondiale di calcio Under 20 sono, non dico una cosa di nicchia, ma non una cosa che viene passata tutti i giorni. Detto questo, abbiamo avuto la possibilità di parlare con loro, di leggere di quanto hanno fatto. Guardi Franco, è stato un po' come come tornare indietro nel tempo, no? Quando le partite non le vedevamo, vedevamo le sintesi della, registrate del secondo tempo, e sto parlando di calcio, vedevamo le partite di basket, alle, di Coppa dei Campioni alle 2 di notte, però leggevamo tutto sui giornali. Prendiamola così, con filosofia, è stato un po' come un salto nel tempo che ha ridato importanza da questo punto di vista alla carta stampata su cui scrive Leo Turrini, oltre a fare mille altre cose. Ciao Leo. Buongiorno maestro. Come cominciamo un traffico. Traffico subito. Traffico bloccato sulla Peiro Cormano. Raikkonen. Sono tutti fermi. Bottas, Hülkenberg, Grosjean, Verne, Gutierrez, Ricciardo, Verstappen, sono tutti piloti che a sentire voi dovevano sostituire A sentire è fermo anche Niki Lauda. Maestro Genta. E alla fine siamo arrivati alla soluzione più razionale, vale a dire il biondino, l'ultimo campione del mondo al volante della rossa, concluderà la sua carriera con la Ferrari, restando anche nel 2016, e tutti questi che stanno ostruendo la circolazione sulla Peiro Cormano hanno almeno un altro anno di tempo per mettersi in evidenza e farci capire che potrebbero meritare il ruolo di vice Vettel. Eccoci qua, caro maestro. E quindi sei felice, io lo sapevo di trovarti felice. Anche Niki Lauda, che però che ha detto: ma ecco, dipenda come va Spa, non sono così sicuro. Se va, non va, vediamo. Contratto secondo me non resta, fermo anche lui. Scusa, voglio dire, hanno fatto un annuncio, c'è un accordo che è stato rinnovato. Tra l'altro, voglio dire, Raikkonen ha anche attuato la spending review, perché per coronare il suo sogno di andare in pensione da ferrarista si è autoridotto lo stipendio. Quindi non capisco Lauda che pensi era Mercedes, a Hamilton, a Rosberg, tra l'altro insomma sono ancora in vantaggio, per carità, vinceranno anche questo mondiale, ma insomma piano piano, come quelli bloccati sulla Peiro Cormano, stiamo arrivando. Comunque decisivo, oltre al tuo parere naturalmente, anche quello di Seb Vettel, lui dice, ha detto, ma io credo credo seriamente che sia importante per la Ferrari, soprattutto in questo contesto che non ha la vettura migliore, possedere una buona atmosfera, un bel clima all'interno della scuderia, no? Ora Vettel e Raikkonen notoriamente, anche quando uno era Red Bull e l'altro la Lotus, hanno sempre coltivato un'amicizia sana, e penso che questo sia un tassello che nella valutazione di Iron Mauri arriva bene, e del mega super presidente Sergio Marchionne abbia influito, perché si saranno detti: ma noi qui parliamo tanto di calcio mercato con Pardo che è sempre al mare eccetera, dobbiamo andare a pagare la Williams perché liberi Bottas, perché abbiamo sentito anche queste cose per tutta l'estate, cioè che la Ferrari avrebbe dovuto sborsare dei quattrini alla Williams e al manager di Bottas, che poi è il capo della Mercedes, Toto Wolff, per prendere un pilota che per carità diventerà anche bravo, ma che per ora va spesso più piano di Massa. Allora non si può pensare che quell'anello noi poi si abbia l'anello al naso, insomma, va bene. Non vinciamo il mondiale dall'ultimo acuzzo ridato di Kimi, però ancora l'anello al naso non ce l'abbiamo. Io vedrei in questa scelta anche una riaffermazione di un sano orgoglio ferrarista, se lei, maestro Genta, mi concede di usare delle Io le concedo quello che vuole, maestro. Senti, ma sulla Peiro Cormano è fermo anche Alonsino, che ha detto: avrei dovuto lasciare la Ferrari 2 anni fa, la macchina era competitiva, le cose diventavano sempre più tristi in squadra, ho continuato a lottare, ma contro la Mercedes ho capito che non sarebbe vinta breve. Fermo anche lui. Abbiamo già affrontato questo argomento sulla Peiro Cormano. Allora, io voglio molto bene ad Alonso, so che si sta dedicando alla coltivazione di rododendri, che sono insomma una pianta molto cara ai rosiconi. Allora, io ringrazio, sono serio, Alonso per tutto l'impegno che ha messo in 5 anni in Ferrari, ha sfiorato il titolo iridato in almeno 2 occasioni, è un grandissimo campione, però dovrebbe anche dire, quando ci segnala che forse è rimasto troppo a lungo in Emilia, che è passato volontariamente dalla padella alla brace, perché la McLaren Honda, lei caro Genta mi insegna, in questo momento non sembra, va fortissimo, ma insomma sembra una Alfa Sud di una volta sulla Salerno Reggio Calabria, dove notoriamente ci sono sempre i lavori in corso da circa 35 anni. Lo dico agli amici di Radio 24 che siete in coda sulla Salerno Reggio Calabria, Alonso, cioè, con l'Alfa Sud, che sta guidando un Alfa Sud che è poi l'ultimo modello McLaren Honda che debutta da domani nelle prove del Gran Premio del Belgio, ma che non credo permetterà a questo hidalgo ispanico di tornare a lottare per la vittoria, come peraltro il suo talento meriterebbe. Certo, io non lo so, ma la CNN dice ma io dovevo andarmene 2 anni fa, ma anche come Cinzia Madrid può dire io dovevo andarmene 2 anni fa da Inter, ho capito. Ragazzi, con il secolo in mano si fa la storia, opportuno, non lo so, hai capito? In compenso non è che siano rimasti gratis, peraltro, sì, le firme sui contratti le ha messe loro, no? No, sì, poi voglio dire, insomma, io sono d'accordo, ripeto, con Alonso quando dice io Ferrari ho dato il massimo, non siamo mai arrivati più là del secondo posto. Certamente e meritatamente ha preso uno stipendio da campione del mondo. Certo. Non è che ci fossero, sai, adesso voi fate sempre calcio mercato, dite prestito con obbligo di riscatti, bonus. Non è che Alonso in Ferrari arrivava quinto e poi solo se arrivava secondo o primo c'erano dei bonus. Cioè, i soldi li prendeva giustamente tutti fino all'ultimo centesimo. E non può certo lamentarsi della puntualità dei pagamenti e dei bonifici che arrivavano con straordinaria regolarità da Marabello. Abbiamo molti difetti, perdiamo molto spesso, ma però siamo degli eccellenti pagatori. Cosa che, in Formula 1 non è neanche banale, nella Formula 1 dell'era moderna. Se tu guardi la situazione, cioè poi insomma, guarda il fatto stesso, questa telenovela del contratto di Raikkonen, prima dicevo di Bottas, cioè. Perché una squadra come la Williams, che un tempo era dominante, no? Diciamo, se la Ferrari davvero vuole Bottas deve pagare noi, perché è libero. Perché c'è una realtà finanziaria comune a tanti team che certo non è brillantissima, no. Insomma. Quindi, è eufemismo. Senti, ecco, Leo, lunedì che cosa racconteremo del Gran Premio di Spa io e te? Allora, guarda, facciamo un discorso molto legato al meteo. Nel senso che se dovesse essere un weekend asciutto, io sinceramente anche dolorosamente no, potrebbe essere un gran bel duello tra Hamilton e Rosberg. Ora Hamilton sai che faceva twerking con Rihanna, mamma mia, potrebbe anche arrivare distratto Hamilton a Spa, e allora uno può anche aggrapparsi a questa speranza, dice gli viene in mente quello scuotimento di una parte del corpo da parte di Rihanna che non possiamo dire perché tu hai in onda in fascia protetta, e magari in fondo allo Rouge sbarella, tocca Rosberg e i due si autoeliminano in una sorta di baracconi di una volta, autoscontro, e a quel punto la Ferrari se la potrebbe giocare, ma se asciutto e Rihanna non viene sulle Ardenne, io temo che per la Ferrari sarebbe già importante riuscire a occupare il gradino più basso del podio. Viceversa, siccome cade molto spesso lassù, ci fosse tempo incerto, sai che Spa è un circuito lunghissimo, no? Tante volte io ho visto delle gare lì che nella zona partenza c'era il sole, 3 chilometri più in là, che era metà del giro, pioveva, e allora lì viene fuori la sensibilità straordinaria di chi sa guidare in circostanze estreme. E in questo io non voglio citare Raikkonen, che pur essendo una pippa ha vinto non so quante volte a Spa, ma che notoriamente è l'università dei fuoriclasse, però Vettel in quelle situazioni, diciamo misto, no? Un po' piove, un po' no, è veramente il clone dello zio Sciumi. Sì, ecco, se ci fosse un meteo ballerino, allora lunedì raccontiamo una cosa diversa. Insomma, servono Leo Turini, servono due danze, o una di Rihanna o una della pioggia, una delle due. Fate voi, hai questo talento alla Dostoevsky che riesci proprio a tirarmi fuori le cose che io vorrei dire, ma essendo notoriamente insomma un cronista di periferia molto ignorante, non trovo la forza di esprimere esprimermi, anche perché sono sempre bloccato qui dietro Bottas, Grosjean, Hulkenberg, Verne, Gutierrez, maestro, Lauda. Ci sentiamo lunedì. Fermi, sono appena Cormano, spero di essermi liberato per lunedì, maestro. Liberati, Leo Turrini, grazie a tutti, bacio. grazie a Claudio Schiattone, grazie a Giovanni Melchiori per questa puntata, la prossima domani dopo il Giro delle Due, tutti convocati. Ti voglio solo dire che tra Piero e Cormano, come ha detto questa voce robotica, c'è la coda perché sta guidando Raikkonen, eh? Questo è giusto che lo sappiate.